Allora, l'immobile è stato già abbattuto il 25 di gennaio ultimo scorso, quindi abbiamo completato l'iter amministrativo che l'amministrazione aveva messo in movimento. Noi abbiamo avuto trasferito al patrimonio comunale questo bene confiscato dall'Agenzia Nazionale Beni Confiscati, che si compone di due immobili. L'immobile di circa 40 metri quadrati che abbiamo abbattuto e un altro immobile è composto da tre appartamenti per i quali già abbiamo un progetto pronto per una riconversione e un riutilizzo come centro di aggregazione giovanile. Quindi ai fini sociali praticamente. Accederemo, ai fini sociali accederemo ai finanziamenti del PON Sicurezza Obiettivo Convergenza 2007-2013. Mi auguro che con la stessa intensità con la quale le istituzioni, la prefettura eccetera hanno supportato e dato solidarietà in questa vicenda, l'amministrazione comunale, la città di Balestrate possono dare anche un contributo nel senso di farci dare i finanziamenti per riconvertire la restante parte. Ecco, ma perché c'è stata tanta difficoltà nell'imbattere questo immobile? Cioè, noi dobbiamo partire da un dato di fatto, vale a dire il dato di fatto che la ditta che era stata prescelta in graduatoria si è ritirata. Si è ritirata perché? Io non credo perché fosse poco l'importo, ma per paura? No, mi preme anche fare un po' di chiarezza, nel senso che l'amministrazione, nel momento in cui ha avuto trasferito questo bene, facendo i sopralluoghi con i nostri uffici tecnici, abbiamo verificato che questo manufatto in sintesi risultava precario, inutilizzabile, seppur utilizzabile ma con una spesa che magari non messa in una bilancia non risultava poi così importante. L'amministrazione ha deciso di demolirlo una volta che abbiamo ottenuto, perché voi sapete che sono questi beni non disponibili, pertanto ma fruibili. L'amministrazione ha dovuto chiedere il nulla osta all'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati. Sì, però io direi di saltare i passi burocratici, perché questo nulla osta, noi abbiamo fatto la gara.